Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Dieci minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Mo li voglio vedere i vari analisti a spiegare cosa sta succedendo adesso sulle borse. Perché? Perché dopo due giorni di ricopertura di molti fondi, di qualcuno che già si spingeva a dire ecco il piano europeo ha funzionato, tutto passato, e invece no, meno 5,1% il MIB, meno 5,4% l'S&P MIB, meno 7% Francoforte, meno 7% Parigi, meno 6,9% Londra, e ancora l'America sta dando una bella mano a far scendere le borse, meno 3,7% il Dow Jones, meno 3,1% il Nasdaq. Ci risiamo. Gli elementi, se vogliamo ogni volta trovare una spiegazione, sono alcuni dati congiunturali oggi usciti dall'America. Nel caso specifico le vendite a dettaglio sono cadute molto più delle attese, ci sono anche timori proprio negli Stati Uniti, ne parleremo più avanti, di un'economia americana che potrebbe già essere entrata in recessione. Per carità, a mio avviso queste sono spiegazioni così sicuramente congiunturali, ma di fondo resta il calcolo che molto a spanne facevamo qualche giorno fa: se il Fondo Monetario stima una crisi finanziaria con un danno di 1.400 miliardi, e se fino ad ora ne sono emerse di svalutazioni 630-650 miliardi, manca metà della roba all'appello, e quindi è difficile vedere la luce in fondo al tunnel, oppure se la luce è una luce molto molto distante. Alcuni di voi hanno scritto ieri, sì, si vede la luce in fondo al tunnel, ma è quella del treno che sta arrivando, e vabbè. Detto questo, parleremo anche di povertà oggi, rapporto della Caritas, dati americani, immatricolazioni auto, cala il settore in Europa, ma meglio fa la Fiat che aumenta la quota di mercato. Poi la promessa, che ormai due giorni che non riuscivamo a mantenere, quella di farvi sentire alcune dichiarazioni a mio avviso molto interessanti del neo premio Nobel dell'economia Paul Krugman. Ancora la questione climatica, oggi infatti inizia il vertice dei leader europei dedicato al piano per fronteggiare la crisi dei mercati finanziari, ma anche il pacchetto di proposte sul cambiamento climatico, quello che preoccupa molto i nostri industriali, visto che la stima dei costi per il sistema è di circa, italiano, delle imprese, di circa 20 miliardi di euro all'anno di costi in più, e in questo momento la situazione non è di quella che consenta grandi margini. 349-238-6666, a grande richiesta il gufo, no, lasciamo stare il gufo oggi, vediamo come va a finire, poi casomai lo tiriamo fuori. Le altre notizie in breve. Allora, la buona notizia di oggi si chiama ancora una volta petrolio. Perché? Perché è sceso sotto i 75 dollari al barile per la prima volta dall'agosto del 2007, e il gasolio è tornato sotto quota 1,3 euro, sarebbe da mandare le campane oggi, ma lasciamo stare, sotto 1,3 euro. Nei distributori API, IP e ERG a 1,297 euro, la benzina invece ai distributori della Esso è ancora a 1,354 euro, ma insomma l'unica cosa buona di questa crisi è la riduzione del prezzo del petrolio, fermo restando che il petrolio cala proprio perché ci sono rischi seri per alcune certezze di recessione. Ancora altri no, sorride perché un ascoltatore scrive: basta spiegare i cali di borsa con la fiducia delle famiglie del Michigan. Non so, avete ragione, ho detto e ho premesso che spesso sono così elementi delle scusanti per vendere. In realtà il problema è che la situazione è ancora assolutamente complicata, assolutamente opaca, assolutamente tossica per quello che riguarda i prodotti in giro. Ma noi andiamo avanti con le altre notizie. L'inflazione nel frattempo sta scendendo in tutti i paesi europei, non solo in Italia, anche in Germania è scesa al 2,9% a settembre, mentre i sussidi sulla disoccupazione in Gran Bretagna hanno toccato il livello più alto da novembre del 2006. E ancora, così chiudiamo con la Spagna, il prezzo delle case in Spagna è diminuito dell'1,3% tra luglio e settembre, seconda caduta trimestrale consecutiva. L'Italia è salita oggi in classifica, però era meglio se non fosse salita, sarebbe stato veramente meglio. Perché? Perché si piazza al sesto posto nella classifica dell'OCSE sulla pressione fiscale dei paesi dell'area OCSE. Noi eravamo al settimo posto nel 2006, nel 2007 siamo al sesto posto quanto a pressione fiscale. La prima era Danimarca, 48,9% del PIL, come la Svezia. Poi il Belgio 44, la Norvegia 43, la Francia 43,6 e poi l'Italia 43,3%. Sappiamo l'obiezione a questa classifica, poi in Italia, siccome c'è una grandissima evasione fiscale, la media è una media di trilussa, perché poi questo 43% per alcuni contribuenti è il 55%, visto che purtroppo le tasse non tutti le pagano nello stesso modo. E restiamo in tema, perché oggi il comandante della Guardia di Finanza Cosimo D'Arrigo ha chiarito come nei primi 9 mesi del 2008 siano stati scoperti 5.660 evasori totali con 8 miliardi di euro di redditi evasi. E ancora ha detto l'evasione fiscale è un fenomeno che non accenna a diminuire, probabilmente anche perché l'applicazione degli studi di settore da parte dell'Agenzia delle Entrate ha indotto una fetta consistente di contribuenti di prima fascia a tentare di sommergersi completamente nell'economia in nero piuttosto che adeguarsi ai livelli previsti dagli studi di settore. E ancora, per quello che riguarda la manovra estiva, la finanziaria che il governo ha annunciato in estate, secondo la Banca d'Italia aumenteranno le entrate fiscali di 1,8 miliardi, le spese verranno ridotte di 1,5 miliardi, e tra l'altro l'aumento delle entrate è dovuto in larga parte a misure come la Robin Tax, 1,7 miliardi da banche e assicurazioni. Ma la Banca d'Italia continua dicendo che l'economia italiana è in stagnazione già nel terzo trimestre, ristagna la produzione industriale che è addirittura in calo nel terzo trimestre dell'anno, ma è previsto anche un continuo calo dell'inflazione. E poi la Banca d'Italia ricorda come i consumi delle famiglie stiano calando, si è contratta dello 0,3% la spesa delle famiglie italiane nei primi 6 mesi rispetto all'anno prima. Questo anche perché il reddito disponibile è cresciuto di un modesto 0,5%. Povertà, quindi continuiamo sul tema del potere d'acquisto, del non potere d'acquisto degli italiani. Perché? Perché oggi la Caritas, che non può certo essere accusata di partigianeria politica, ha fotografato un paese in cui da noi, un paese in cui diciamo la spesa sociale incide poco nella lotta alla povertà, mentre in Germania, Olanda, Irlanda la spesa per la protezione sociale riduce del 50% il rischio di povertà, da noi lo riduce solo del 4%. E poi ha aggiunto il 13% degli italiani è povero, ossia vive con meno di 500-600 euro al mese. Sono povere le famiglie con anziani ed è povero un terzo delle famiglie con 3 o più figli, di cui il 50% quasi vive al sud. Avere più figli aumenta il rischio povertà. E poi ci si chiede perché nel paese c'è un problema demografico. Ma andiamo avanti così e pensiamo adesso alle notizie che stanno arrivando dai mercati. Qualcuno si sarà impoverito anche nei mercati, non mi fa nessuna pena chi ha beccato milioni di euro o di dollari di buonuscita. Facciamo un po' di sano populismo e partiamo con la giornata di borsa. Allora, vediamo se questa è o non è l'America. Cerchiamo di capire che cosa stia capitando proprio dall'America. Meno 3,6% il Dow Jones, in questo momento meno 3% il Nasdaq, meno 6,90% Francoforte, meno 6,7% Parigi e ancora, per quello che riguarda i mercati, Milano perde il 5,5%. Immagino che vi siano notizie in generale. Quelle che noi abbiamo visto sono di un governo americano che specifica come il piano 250 miliardi di dollari sia un piano in cui lo Stato entra come investitore passivo nelle banche. Bush ha promesso che nel lungo termine l'economia americana si riprenderà, bisogna capire quanto lungo sia questo termine. E poi Brown, invece Gordon Brown, che viene considerato l'artefice di questo piano europeo e poi anche adottato dall'America, ha detto serve subito in Europa un supervisore unico per i mercati, un'unica grande Consob, perché altrimenti Gordon Brown non si riferiva solo all'Europa, parlava dei crisi dei mutui, della crisi dei mutui in generale. E poi ha detto tra l'altro occorre che in una nuova Bretton Woods si mettano le 30 maggiori società al mondo sorvegliate da un particolare specifico collegio di supervisione internazionale. Questo è un passaggio importante, si prendono le prime 30 multinazionali e si decide che loro, proprio per il peso, la responsabilità specifica, devono essere vigilate in maniera diversa da altri soggetti. E quindi chiede Gordon Brown, il primo ministro britannico, un nuovo incontro, una nuova Bretton Woods per ridisegnare le regole finanziarie e economiche a livello mondiale. I think the significance of the events of the last few days when Europe came together through the Eurogroup. Penso che la portata degli eventi degli ultimi giorni, quando l'Europa riunita all'Eurogruppo ha intrapreso azioni comuni per affrontare la crisi, non finisca dopo alcuni giorni, ma avrà ricadute anche nei prossimi anni. Quello che vediamo oggi è che a livello globale le diverse economie intraprendono azioni simili, immissione di liquidità nel sistema, ricapitalizzazione delle banche in modo che siano più forti nel futuro. Inoltre, grazie a queste azioni si potrà tornare alle funzioni originarie delle banche, ossia di prestare denaro alle imprese e alle famiglie. È un momento importante per l'Unione Europea. Spero si possa trovare un accordo tutti insieme su cosa si deve fare. Tutti i membri dell'Unione si sentiranno parte del progetto necessario per stabilizzare il sistema finanziario e per far progredire l'economia europea. Credo che il primo passo sia stato di stabilizzare il sistema finanziario con l'immissione di liquidità e la ricapitalizzazione delle banche. Credo ora che si debba procedere al secondo passo e l'Europa deve continuare a lavorare insieme in eccezionale unità. Dobbiamo lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi comuni. Il secondo passo da compiere è di assicurarsi che i problemi del sistema finanziario, problemi che sono iniziati dagli Stati Uniti, non tornino di nuovo. Dobbiamo dare fiducia alle persone sul fatto che abbiamo intrapreso le azioni necessarie per scacciare gli eccessi del sistema. Dobbiamo essere certi che le regole assicurino trasparenza e che ci siano controlli in quelle aree dove non erano richiesti in precedenza, ma che adesso sappiamo necessari. In areas where supervision was previously not required, but we now know is necessary. Così è tornata Rain dei Cult, che abbiamo scelto proprio per la sua indicazione di questa pioggia di vendite come nostra base in queste giornate. Dottor Carlo Gentili, amministratore delegato di Next and Partners, buonasera. Buonasera a voi. Non è un programma musicale, è che non sappiamo più che cosa fare e dire in questi giorni, quindi ci aggrappiamo a qualunque elemento. O lei mi racconta cosa pensa dei Cult o mi spiega perché questi mercati, dopo due giorni di tregua, hanno preso a venire giù nelle ultime due ore. Non mi dica la prima domanda, perché sennò è troppo facile. No, no, perché la crisi è profonda, ci vuole tempo per ristabilire completamente la fiducia, anche se direi che i provvedimenti dei governi e delle autorità di controllo o finalmente stanno andando nella direzione giusta. Naturalmente le, te- tensioni sono molte, sono profonde, immagino che ci siano ancora tantissime posizioni da sistemare al di là di quelle bancarie, ma tanta leva che deve essere ridotta, e questo porta agli scompensi che vediamo anche oggi, insomma, ecco, però credo che quello che è importante è che siano arrivati questi primi provvedimenti, che anche il governo italiano, i governi europei hanno iniziato a prendere. Ecco, io vorrei capire, secondo lei adesso sarà un problema, cioè si potrà contenere o tornare a contenere il problema a un livello di borsa, per cui inizieremo a vedere titoli che soffrono anche per gli utili in calo? Oppure il rischio di contagio, che è quello che noi temiamo di più, a tutta l'economia reale e quindi non solo la parte finanziaria, è ancora presente? Contagio nel senso che no, certamente la crisi finanziaria viene trasmessa anche al sistema economico in generale, se non altro perché ci saranno delle strette creditizie notevoli, i cui primi effetti già si iniziano a vedere anche sui casi italiani. Questo indubbiamente avrà effetti pesanti sull'economia, però è anche vero che i mercati azionari oggi tutto questo penso lo scontino e l'abbiano già scontato nei prezzi, insomma in buona parte l'abbiamo già scontato nei prezzi. Quello che è importante. Voi state vendendo? No, assolutamente. State comprando? No, direi che noi state comprando, state vendendo o siete chiusi? No, qualcosa abbiamo ricomprato, abbiamo insomma cercato di qua e là ritornare su delle posizioni, in certi casi anche posizioni che non avevamo considerato mai, diciamo, con particolare favore, ma appunto alcune utilities hanno rendimenti molto interessanti e valutazioni molto compresse, diciamo ci sono anche delle grandi società di grande capitalizzazione che così diciamo sono state molto penalizzate. Penso anche ad alcune banche stesse anche italiane. Scusi dottor Gentili, ma come fate a comprare voi le banche, cioè a fidarvi di una banca che comprate, se le banche tra di loro non si fidano l'una delle altre? No, questo lo capisco, però i provvedimenti che sono stati presi adesso diciamo accantonano un po' il problema, cioè i prestiti tra banche a questo punto sono garantiti dal governo e questo dovrebbe ristabilire la fiducia o quantomeno stabilisce le garanzie finali. Sì, quello che manca tra i provvedimenti. Mi scusi Gentili, più che accantonare il problema hanno trasferito il problema totalmente su di noi, cioè ci siamo fatti carico tutti noi cittadini, lo Stato, di garantire le transazioni bancarie di fatto, no? Perché sennò la situazione non si sbloccava. Non c'è dubbio, e a questo proposito vorrei diciamo sollevare un piccolo grande non lo so tema, ma diciamo il decreto che ho visto, che io ho letto, il decreto approvato al governo due giorni fa, il decreto 157, è un po' singolare. Io non ho capito, a un certo punto diciamo il governo in sostanza concambia alle banche i titoli cosiddetti tossici con titoli con certificati del tesoro, e qui sta appunto quello che diceva lei: noi ci facciamo carico degli errori altrui. Quello che è singolare è che si chiede di fare questa operazione solo sulle emissioni successive all'emissione del decreto, quindi non si va a pulire il passato ma si tende a pulire il presente. Se così fosse, se la mia interpretazione è corretta, cioè non vorrei che le banche continuassero nell'operazione di emissione di titoli strutturati, che è proprio la cosa che dobbiamo assolutamente vietare. Questo è il pezzo di normativa che ancora manca in generale, cioè dobbiamo far sì che l'emissione di titoli derivati o strutturati passi sotto il vaglio dell'autorità di controllo. Questo è fondamentale. Fino ad oggi è avvenuto in maniera molto blanda, deve avvenire in maniera più severa. Ma se addirittura il decreto italiano fosse per caso, così come l'ho interpretato io, riferito ai titoli di nuova emissione, non vorrei che le banche oggi stessero rastrellando titoli derivati strutturati che valgono poco più di zero, li stessero impacchettando in nuovi strutturati e li dessero al nostro governo, che a quel punto è anche costretto a pagarli, come si dice, come se fossero nuovi, come se fossero buoni, e dare in cambio i CCT. Questo sarebbe davvero inaccettabile. È un punto normativo. Come faremo a scoprirlo, Gentili? Cioè, lei sta dicendo, mi scusi perché devo far capire a tutti, lei sta dicendo, siccome il decreto prevede che le garanzie dello Stato valgano per le nuove emissioni, non vorrei che, questo è il suo sospetto, le banche che hanno dentro questa roba tossica la stiano rastrellando, la rimpacchettino come un nuovo prodotto strutturato da emettere, quindi gli danno una mano di bianco, si dice in alcuni dialetti, cioè lo rendono nuovo, sembra nuovo e appena lavato, e lo rimettono sul mercato, così il governo è obbligato, lo Stato, a comprarlo in cambio da bot, e tu ti sei liberato di roba tossica. Diciamo un'operazione poco trasparente, ho capito bene? Mm-hmm. Sì, esattamente. Io, il decreto dice il Ministero dell'Economia è autorizzato a effettuare operazioni su titoli di emissione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. Mm-hmm. Quindi sull'italiano non ci sono molti dubbi. Mm-hmm. Allora, ultima domanda, secondo lei come andranno le trimestrali? Perché oggi è uscito JP Morgan, ha perso l'85% la trimestrale, però gli analisti hanno detto meglio delle attese, certo. Poteva anche crollare il palazzo di JP Morgan, quindi meglio delle attese. E così come la Wells Fargo, che non fa banche, non faceva prodotti strutturati, ha fatto un meno 24%, ma anche qui tutti gli analisti hanno detto meglio delle attese. Come andranno le trimestrali? Meglio delle attese, ho capito. Ma comunque risultati profittevoli per le banche, quindi diciamo sono risultati che vengono considerati positivi. Tenga conto che se è vero quello che sta succedendo, che si legge sui giornali, cioè che le banche stanno rastrellando liquidità e quindi i risparmiatori vendono appunto azioni, obbligazioni eccetera, e portano tutto sui conti correnti, mediamente oggi un conto corrente sarà remunerato, ora non sono diciamo un esperto di conti correnti, ma sarà remunerato tra l'1,5% e il 2%, quindi le banche raccolgono l'1,5% e il 2% e prestano a Euribor più un punto, due punti, l'Euribor è a 5,30, un punto, due punti sopra si va a 6,30, 7,30, cioè se chiediamo un prestito in banca questi più o meno sono i tassi di interesse tra il 6-7% circa, e la banca paga l'1,5-2%, quindi in questo momento le banche hanno uno spread favorevole, cioè un differenziale favorevole, un margine diciamo così, siamo noi che non ce l'abbiamo favorevole lo spread, Gentile, perché in modo o nell'altro di riffo di raffa la collettività si carica gli eventuali danni creati dal mondo bancario a livello europeo e mondiale, quindi ringraziamo, non ci siamo caricati dei dividendi, dei bonus in questi anni, e allo stesso modo il tasso interbancario è un po' in discesa, l'Euribor, però è sempre molto alto, e quindi insomma, non è che da una parte o dall'altra il normale cittadino ci guadagni nulla, anzi ci perde e basta. Detto ciò, lo dico a chi sta scrivendo, non c'era altra soluzione che un piano di salvataggio, una rete, una cintura di protezione per non rischiare veramente l'avvitamento, e questo sì, poi che diventava una situazione anche peggiore. Le borse hanno chiuso, meno 7% Francoforte, meno 7,20 Parigi, meno 7,11% Londra, così ci siamo mangiati due giorni di rialzi. Milano meno 5,3% e il Mibtel meno 5,2%. Oggi brutta chiusura di borsa. Molti messaggi che stanno arrivando in questi giorni, anche su termini, concetti, categorie, e molti di voi chiedono di sentire, e in alcuni casi risentire, Krugman. Allora vediamo di accontentare un po' tutti. Allora, due domande più frequenti, abbiamo già risposto alcune volte, ma torniamo a farlo. Che cosa vuol dire bruciare 400 miliardi di euro in borsa? Vuol dire banalmente che la capitalizzazione di borsa, che è data dal numero di azioni moltiplicate per il valore di ogni azione, può crescere o scendere a seconda di come vanno i mercati. È un, diciamo, un bruciare virtuale, così come per un investimento, uno finché non vende sta perdendo teoricamente il 20%, ma finché lo tieni in borsa il titolo non hai perso nulla, però la capitalizzazione complessiva, cioè quanto capitalizzano in borsa tutte le società quotate in quel listino o nelle borse europee, si è ridotta di, nel caso dei giorni scorsi, 400 miliardi, oppure di ieri, l'altro ieri, è cresciuta di 300 miliardi. Questo vuol dire. Altra domanda che arriva sempre: se tutti vendono, chi compra? L'abbiamo già spiegato, e i mercati sono mercati telematici, ci sono ordini impartiti, diciamo, via computer, che trovano a un certo livello di prezzo un acquirente in qualunque parte del mondo. Sono i mercati, diciamo, lavorano in Asia come in America come in Europa, e allora uno immette un ordine di vendita, se non trova nessun acquirente per quel prezzo scende, abbassa il prezzo finché qualcuno non ritiene che, vediamo il caso di oggi per esempio, il titolo che più ha perso sul S&P MIB, che è Tenaris, che Tenaris a 9,13 euro fosse da comprare, l'ha comprata visto che qualcuno l'ha venduta a 9,13 euro, che è il prezzo più basso di Tenaris, meno 11,3% oggi per la precisione. Cosa vuol dire liquidità? Immettere liquidità, le banche centrali in questi mesi, in questo anno ormai, hanno garantito, sperando in questo modo di salvare i salvabili, così non è stato, hanno garantito le banche europee che non vi sarebbe stato un problema di trovare soldi, siccome le banche tra di loro di solito i soldi se li prestano, ma in questo caso non lo stanno facendo, le banche centrali hanno come aperto un grande sportello, diciamo, di prestiti a brevissimo termine, miliardi e miliardi di euro che possono essere ridati dopo una settimana, due settimane, con tassi di interesse agevolati, insomma hanno supplito a quello che di solito è l'atteggiamento e l'attività normale delle banche private. Krugman, Paul Krugman, neo premio Nobel, lo disse in tempi non sospetti, gli anni ruggenti della New Economy, la bolla speculativa della New Economy, e adesso, proprio nei giorni in cui ha vinto il premio Nobel, è ancora più duro, dice: questa crisi devastante mai vista prima negli ultimi 50 anni ha due nomi e due responsabili sul piano, diciamo, dell'organizzazione della crisi. Da un lato Alan Greenspan, storico, per alcuni anche mitico, decennale presidente della Federal Reserve, e dall'altro Phil Graham, ossia il senatore che nel 99 ha fatto decadere quella legge che poneva moltissimi vincoli alle banche nel settore bancario sugli investimenti, e ha ottenuto lo splendido risultato di far riempire le banche più importanti del mondo di robaccia tossica. Sentiamo Krugman lo scorso 22 settembre, proprio in audizione, anzi scusatemi, in un'intervista alla TV americana. Almost everybody agrees that we need something right now. We do need a rescue. Tutti concordano sul fatto che abbiamo bisogno di un piano di salvataggio. Ma il punto che più mi sorprende, in negativo, è quando sento parlare di rilevare gli asset tossici dalle banche. È una frase che non significa nulla, perché non ci dice a quale prezzo verrà fatta questa operazione. Se il prezzo sarà molto basso, ne avranno vantaggio i contribuenti, ma non le banche. Al contrario, se il piano costerà molto, le banche verranno salvate perché si immetterà molto denaro dei contribuenti. Ma mi chiedo che senso abbia. Come possiamo pensare di fare questa operazione senza gettare una grande quantità di denaro? Il segretario al tesoro, Paulson, non ha mai spiegato questi aspetti. Non ci ha nemmeno provato. Ha solo detto di fidarci di lui. Non credo che gli elettori abbiano la capacità di valutare il piano. Ci sono però grandi differenze tra i due partiti. I democratici sono visti come quelli che più tengono ai regolamenti e ai controlli, al contrario dei repubblicani. Quindi l'attenzione sarà posta su chi potrebbe essere in grado di cancellare i fenomeni di abuso sui mercati. I repubblicani, che sostengono che i mercati stanno bene così, oppure i democratici, che invitano a maggiori controlli. Io credo che sia importante analizzare le persone che circondano i due candidati. Il guru economico di McCain è Phil Graham, uno dei massimi esponenti della deregulation. E se devo indicare le due persone a cui dare la colpa della crisi, la prima è Alan Greenspan, la seconda è proprio Phil Graham. Nonostante le voci ufficiali, tutti sanno che se McCain diventa presidente degli Stati Uniti, Phil Graham è il favorito per essere segretario al tesoro. E se c'è qualcuno che potrebbe farci tornare ai tempi della Grande Depressione, quello è proprio Phil Graham. I think Phil Graham might be just the guy to do it. E bravo Graham, c'era un pezzo bellissimo su Sole 24 Ore di un paio di settimane fa, firma di Claudio Gatti, che ricostruiva proprio l'origine, la genesi di questa crisi, questi geni che vedevano nella libera, nel libero mercato l'unica forza, l'unico motore, l'unica etica della società. Qualcuno gli avesse spiegato che i mercati o sono regolati o non sono mercati, sono giungle, sono luoghi banditeschi. Poi abbiamo visto cosa è successo. Comunque, Phil Gramm è un nome, Alan Greenspan è un altro nome, e poi tutta un'amministrazione che ha permesso questo di accadere. Ma adesso andare sempre a cercare i colpevoli è un esercizio così storico, quasi retorico. Qua stiamo confrontando mercati che oggi hanno perso il 6,8% in Europa, l'America sta perdendo un altro 3,7%, e quindi dopo due giorni di liscio si è tornati a ballare di brutto. Dunque, alcuni di voi dicono attenzione, alcuni di voi lo dicono in maniera un po' volgare a mio avviso, però attenzione che Greenspan era anche un vostro mito. Dunque, abbiamo fatto un'intera puntata per ricordare l'eredità di Greenspan, dicendo allora che qualche responsabilità sulla bolla della New Economy l'aveva avuta, che però era stato un grande presidente della Federal Reserve e che aveva tenuto i tassi un po' troppo bassi, vado a memoria, dopo l'11 settembre. Questa puntata la facemmo, anche qui vado a memoria, due anni fa quando Greenspan terminò il suo mandato. Nessuno poteva immaginare quello che c'era sotto. Detto questo, a mio avviso la colpa di Greenspan principale è aver tenuto i tassi troppo bassi, altra cosa è l'attività politica del Congresso americano, che ha levato regole per regolamentare l'attività bancaria che esistevano dal 29, e non a caso levate le regole del 29 siamo tornati nel 29. A me sembra abbastanza chiara come spiegazione. Andrea Fontana, Radio Core, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera Sebastiano. Che è successo alla fine? Perché tutto sommato la giornata era debole, meno 2, meno 3, poi un'accelerata nel finale, giusto per andare a casa contenti. È successo che i dati americani del pomeriggio, quelli pubblicati intorno alle 14.30 sulla fiducia del comparto manifatturiero, il famoso indice Empire, e invece sulle vendite al dettaglio sono stati deludenti, fortemente peggiori delle attese, e questo ha alimentato il timore che l'impatto di questa crisi e l'impatto dell'andamento economico in ribasso preventivato nei mesi scorsi sull'economia reale sia ormai dietro l'angolo e ormai percepibile da tutti nell'economia reale. Inoltre nel pomeriggio sono continuati i rumors in merito a qualche le voci in merito a qualche hedge fund in crisi, in difficoltà. Si fa anche qualche nome come quello di Atticus. Sì, ma scusami Andrea, ma chi se ne frega? Cioè, non, cioè, è possibile che un hedge fund in difficoltà porti il mercato a perdere il 7% a Francoforte, a Parigi, e il 5,5% a Milano? Beh, certamente se questo hedge fund in difficoltà inizia a vendere in maniera diciamo indiscriminata sui vari titoli, questo fa sì che non si guardi più ai valori, ma quando bisogna vendere si vede. No, sai perché te lo chiedo? Perché la sensazione è che dopo due giorni di riposizionamento, come voi avete anche raccontato, di ricoperture perché i fondi erano usciti un po' troppo, di nuovo siamo ripartiti. Cioè, io adesso tu hai ragione a ricordare le voci su hedge fund e anche i dati americani, però ammetterai anche tu che forse sono un po' pretestuose per perdere il 7% nel finale, tutto qua, o no? Diciamo che sicuramente l'orientamento in negativo è stato dato dai dati americani. Certamente diciamo così, l'accelerazione ha fatto l'accelerazione negativa nel corso del pomeriggio ha diciamo fatto circolare delle nuove voci nel momento in cui si è visto che gli ordini in vendita erano molto massicci. Diciamo che in questo caso si va a pensare a un investitore istituzionale in difficoltà che va a vendere più che a piccoli investitori. Certo. Ma quindi il timore di fondo, al di là del dato congiunturale, è che altri nomi di banche arriveranno, diciamo, nella lista nera? Se non di banche, forse di investitori istituzionali di questo tipo. Cioè di grandi fondi. Esatto. Speriamo non siano fondi pensione. No, almeno quello lo dico, perché insomma, finché un hedge fund è un conto, sul fondo pensione diventa materia molto molto più delicata. Comunque, Tenaris, meno 11,4. Io sapevo che facesse acciaio Tenaris, non fondi pensione, però evidentemente viene giù tutto oggi. Buzzi Unice, meno 11,3. ST Microelectronics meno 9,5%, Enel meno 8,90%, Unicredito meno 8%, Banco Popolare meno 7,80%, Bulgari meno 7,4%, Saipem meno 6,3%, Eni ha perso il 5,8%, il 5,5% l'ha perso l'Espresso come Intesa, il 5% il calo di Mediaset, il 4,80% quello di Alleanza e di Atlantia, il 4,6% quello di Fiat e Lottomatica, il 4,5% quello di Geox, il 4,1% quello di Telecom Italia, infine 4% lo perdono anche la Banca Popolare, Pirelli e Impregilo, il 3,5% Finmeccanica, il 3,3% lo perde A2A, Italcementi e Ubibanca. Andrea, è possibile distinguere qualcosa? Non so, per esempio ho visto positiva oggi nel finale Mondadori più 7,27, Seat più 5,2, Snam più 1,80, Parmalat più 1,3%. Per quanto riguarda Mondadori, certamente la notizia arrivata ieri ai mercati chiusi sulla vendita dell'80% della società che possiede le tipografie del gruppo editoriale, la Mondadori Printing S.p.A. al gruppo Pozzoni per un valore della società di 145 milioni, è stato giudicato positivamente dal mercato, in maniera particolare per l'impatto che questo avrà sulla posizione finanziaria, quindi sull'indebitamento di Mondadori, quindi un impatto positivo per 123 milioni. Per quanto riguarda Seat, pagine gialle da qualche giorno che gli acquisti si concentrano sulla scommessa che gli azionisti, cioè quattro fondi di private equity che controllano la maggioranza della società, possano dar luogo a qualche operazione straordinaria. Nei giorni scorsi si è saputo che hanno chiesto a Consob delucidazioni sulla possibilità di unire le loro quote in un veicolo e se questo avrebbe comportato l'obbligo di lanciare un'OPA sul mercato. Consob ha risposto di sì, ieri c'è stato un comunicato per cui non è allo studio il lancio di un'OPA, ma può darsi che un riassetto azionario su Seat certo possa avvenire e questo ha favorito il rimbalzo. Per quello che riguarda il resto invece hanno sofferto, come abbiamo visto, di più i titoli bancari e anche titoli su cui si va più a vendere, perché erano titoli di settori non a rischio e per questo che si vende, perché qualcosa ancora si guadagna. Penso a Enel meno 8,9 o Eni meno 5,80%. Grazie Andrea Fontana, Radio Cori, il Sole 24 Ore. Cosa sono gli hedge fund? Sono fondi che investono in maniera molto speculativa, molto rischiosa, ma muovono decine di miliardi, centinaia di miliardi di euro e di dollari. Questi sono gli hedge fund. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Molti messaggi che stanno arrivando. Alcuni di voi dicono: vabbè, il calo, il tonfo di oggi, visto che Londra, Parigi, Francoforte hanno perso quasi il 7%, Milano il 5,5%, è dovuto al fatto che molti hanno venduto dopo i rialzi degli ultimi giorni. Vabbè, tutto quello che volete, resta un tono complessivo, al di là delle singole sedute, chiaramente di mercati che, se va bene, sono a metà del guado. Ancora alcuni di voi chiedono la sospensione delle contrattazioni di borsa, ma non se n'è mai discusso dalle dichiarazioni ufficiali che abbiamo letto. Ancora, cosa vuol dire delisting? Vuol dire che un titolo viene elevato dalla borsa per vari motivi. Il più classico è perché tutte le azioni vengono riacquistate. E alcuni di voi chiedono invece nel tema delle emissioni di gas nocivi, quindi CO2, che l'Europa non si faccia del male da sola. Arriveremo a questo punto. Vorrei però adesso parlare di povertà, non quella in cui finiranno manager milionari per errori commessi sulle banche, una povertà diciamo relativa, ma quella fotografata oggi dall'ottavo rapporto sulla povertà della Caritas. È un rapporto molto importante, viene pubblicato ogni anno. 15 milioni su la povertà secondo la Caritas riguarda 15 milioni di italiani, uno su quattro, e l'Italia è nell'area europea la zona dove i cittadini sono a maggior rischio di povertà, perché le misure contro la povertà sono le meno efficaci rispetto a tutta l'Europa. Infatti in paesi come Germania, Olanda e Irlanda la protezione sociale riesce a ridurre del 50% il rischio di povertà, da noi solo il 4%.

sanità, e poi la Caritas ha detto gli aiuti sono comunque inefficaci. Dopo la Grecia, l'Italia è il paese europeo in cui i trasferimenti sociali hanno il minor impatto nel ridurre la povertà. E su questo è intervenuto in audizione alla Camera il ministro del welfare Sacconi, che ha detto che il ministero sta ritirando gli strumenti e le risorse disponibili per affrontare quello che potrebbe essere obiettivamente un anno di maggiore difficoltà anche dal punto di vista dell'occupazione. Le difficili condizioni dell'economia hanno dato luogo in effetti ad un aumento nel periodo 1 gennaio 30 settembre 2008 per 985 istanze presentate rispetto al medesimo periodo 1 gennaio 30 settembre dell'anno 2007, quando erano state presentate 923 istanze, quindi con una differenza di 62 domande di cassa integrazione straordinaria da parte delle imprese. Il Ministero in ogni caso sta riorientando risorse accantonate per le politiche attive del lavoro verso obiettivi prioritari di sostegno all'aggiornamento delle competenze dei lavoratori e di sviluppo dei servizi di accompagnamento al lavoro. Stiamo insomma ritirando il complesso degli strumenti e delle risorse disponibili per affrontare quello che potrebbe essere obiettivamente un anno di maggiore difficoltà dal punto di vista dell'occupazione. Ci auguriamo di no, ci auguriamo quindi che l'impatto della crisi finanziaria e bancaria non si trasferisca in maniera diretta sul ciclo economico, anche se le previsioni di un'America già in recessione non lasciano ben sperare. Questa notte alle 3 di mattina, ora italiana, l'ultimo dibattito faccia a faccia televisivo tra Barack Obama e John McCain verterà molto anche su questi temi. What I believe is that we understand that climate change is not an optional extra. Il pacchetto sui cambiamenti climatici, che mira a ridurre le emissioni di CO2 entro il 2020, non è un optional né un digestivo che prendiamo solo quando stiamo bene. È una sfida vera, che non scompare a causa della crisi finanziaria. Quindi, sul tema dei cambiamenti climatici, cerchiamo di non compiere gli stessi errori fatti riguardo alla crisi finanziaria. Cerchiamo di mantenere forti impegni verso questo tema. Serve una giusta flessibilità in termini di attuazione, ma occorre rispettare anche gli obiettivi che sono stati approvati in modo unanime dai capi di Stato e di Governo lo scorso anno. But let's keep to the targets that were unanimously approved by the heads of state and government last year. Così oggi il presidente della Commissione europea Manuel Barroso, dopo un incontro col premier britannico Gordon Brown. Il tema è la politica energetica europea, soprattutto quella legata alle emissioni, quindi il tema del clima e delle emissioni nocive. Qual è lo schema che l'Europa vuole far approvare? Uno schema del cosiddetto 20+20+20, ne abbiamo parlato anche ieri. Entro il 2020 l'Europa vuole arrivare con un 20% in meno di emissioni di CO2, quindi di anidride carbonica, un 20% in più di aumento delle fonti rinnovabili, dell'utilizzo delle fonti rinnovabili, e un 20% in meno di consumo energetico. Qual è il problema? Il problema è che il costo per il mondo delle imprese europee e nel caso specifico italiane rischia di essere altissimo. Le stime parlano di 20 miliardi di euro all'anno per tutti gli anni dell'attuazione. Bruxelles stima comunque un costo di 60 miliardi di euro all'anno, che è comunque un bel costo, e su questo l'Italia ha detto no, non vuole approvare il piano così come è stato presentato. Devo dire che non è un gran momento per andare a penalizzare il sistema produttivo europeo, ma Barroso ha detto, insomma, il tema climatico non è un qualcosa che si può cambiare a seconda dell'umore, non è un optional, non è un digestivo che prendiamo solo quando stiamo bene, si deve applicare anche quando l'economia va male. Adriana Ceretelli, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles, buonasera. Buonasera. Adriana, oggi c'è il vertice tra i leader nazionali, si parlerà anche di mercati finanziari, ma insomma, c'è possibilità di un accordo, visto che il no dell'Italia, ribadito dal ministro Scajola, è netto al piano in questa formulazione? Ma diciamo che oggi, per oggi non si aspetta un accordo, la speranza è di arrivare a un accordo entro la fine dell'anno. A dire no al pacchetto così come è concepito, non ai suoi obiettivi, perché nemmeno l'Italia dice no agli obiettivi del pacchetto clima energia, sono diversi paesi, c'è l'Italia, c'è la Polonia e ci sono quasi tutti i paesi dell'est, e c'è soprattutto, cosa che in questi casi è ancora più decisiva, la Germania, la cui industria è sul piede di guerra proprio per ragioni analoghe a quelle italiane, essendo la Germania un'economia manifatturiera come la nostra. E quindi si chiede diciamo più flessibilità, più deroghe, in modo da riuscire a dare un colpo al cerchio e una alla botte, cioè tener conto dei costi notevoli che diventano praticamente insostenibili quando le economie sono in recessione, e però anche tenga conto dei potenziali vantaggi di un'economia a basso tasso di anidride carbonica guardato in prospettiva. Quindi si cerca, diciamo, una via mediana della ragionevolezza. Si riuscirà ad arrivarci o no, questo sarà tutto da vedere, però certamente oramai mi sembra che la linea di tendenza, se si escludono i paesi scandinavi che sono, diciamo, i primi della classe da sempre, quindi si ritrovano a dover comunque sostenere dei costi modesti rispetto agli altri, tutti più o meno i paesi sono d'accordo sul fatto che bisogna trovare un modo di mantenere la strategia, ma di usare una politica molto più flessibile e ragionevole per raggiungerla. Sì, tra l'altro, come ci spiegava ieri il presidente della Commissione di Confindustria Fumagalli, il calcolo è che quando l'Europa applicherà questo piano abbasserà alla fine le emissioni di un ottavo all'anno di quanto è rispetto a quanto è l'aumento delle emissioni ogni anno della sola Cina. Cioè questo grande sforzo porterà a minori emissioni pari a un ottavo rispetto all'incremento che ogni anno crea la sola Cina. Infatti, e per cui attenzione, io siamo tutti d'accordo sulle emissioni di anidride carbonica, però 60 miliardi all'anno sulle imprese, e tu giustamente ricordavi che alcuni paesi ce le hanno più manifatturiere, quindi emettono più gas, perché se tu produci beni manufatti hai maggiori emissioni, se tu hai una società finanziaria, se ancora ce n'è qualcuno in giro, ma insomma hai minori problemi sulle emissioni di CO2, quindi paesi magari dove ci sono più mondo dei servizi sono più avvantaggiati. Vedremo come andrà a finire. Grazie. Prego. Il problema è che questa strategia, in un momento, diciamo, di congiuntura economica avversa, certo, non può certo essere diciamo realizzata quando i paesi più inquinanti del mondo non vengano associati. Sì. E quindi diciamo, siccome nella strategia europea c'è addirittura la previsione di un automatismo per le riduzioni, nel senso che si passerebbe dal 20 addirittura al 30% qualora ci fosse un accordo globale, ecco, cioè su certo, questo bisogna molto ragionare, nel senso che per il momento nessuno ha l'aria di dire ci uniamo agli obiettivi europei. Sì. Cioè non facciamo noi i primi della classe se poi Cina e Stati Uniti, per essere ancora più espliciti, non ci seguono. Pagheremo solo nel conto, ci daremo un po' il bastone e la zappa sui piedi. Grazie anche a Adriana Ceretelli in collegamento con noi da Bruxelles. L'ultimo dato: l'America sta peggiorando, meno 4%. Vi auguro una buona serata, pensate ad altro, domani torneremo a occuparci dei mercati, vedremo se saliranno, se scenderanno, che cosa faranno oggi. Brutta la giornata, cali tra il 5 e il 7% in tutta Europa, ci risentiamo domani.